Nel frattempo, poiché Madame de Villeparisis aveva chiesto al signor di Norpois di far accomodare il principe Foggi, ebbe inizio fra i tre un'amabile conversazione. Si parlò di politica, il principe dichiarò d'essere indifferente alle sorti del governo e che sarebbe rimasto ancora una buona settimana a Venezia. Sperava che, almeno per quel periodo, venisse evitata ogni crisi ministeriale. In un primo momento il principe Foggi credette che il signor di Norpois non si interessasse a queste faccende politiche, visto che dopo essersi espresso finora con tanta veemenza, improvvisamente s'era chiuso in un silenzio quasi angelico, dal quale non sembrava che potesse sbocciare, se fosse tornata la voce, che un canto innocente e melodioso di Mendelssohn o di César Franck. Il principe pensava anche che fosse dovuto quel silenzio al riserbo di un francese che davanti a un italiano non vuole parlare delle questioni italiane. Ora, l'errore del principe era completo. Il silenzio, l'aria di indifferenza, s'erano mantenuti in Norpois non come segno di riserbo, ma come abituale preludio all'intromissione in questioni importanti. Il marchese aspirava niente meno che a Costantinopoli, previa una sistemazione delle faccende tedesche per la quale contava di forzare la mano al governo di Roma. Il marchese riteneva infatti che un atto di portata internazionale da parte sua potesse essere il degno coronamento della sua carriera. Forse anche il principio di nuovi onori, di funzioni difficili cui non aveva rinunciato. Perché all'inizio la vecchiaia ci rende incapaci di intraprendere, ma non di desiderare. È solo in un terzo periodo che chi vive sino a un'età molto avanzata rinuncia al desiderio come ha già dovuto abbandonare l'azione. Non si presenta neanche più a elezioni futili, dove tante volte ha tentato di sfondare, come quella del Presidente della Repubblica. Si accontenta di andare a passeggio, di mangiare, di leggere i giornali. Sopravvive a se stesso. Per mettere il marchese a suo agio e mostrargli che lo considerava come un compatriota, il principe si mise a parlare dei possibili successori dell'attuale presidente del Consiglio. Successori che avrebbero avuto un compito difficile. Quando il principe ebbe citato più di 20 nomi di uomini politici che gli sembravano ministeriabili, nomi che l'ex ambasciatore ascoltò con le palpebre semiabbassate sugli occhi azzurri e senza fare un solo movimento, Norpois ruppe infine il silenzio per pronunciare queste parole che avrebbero per 20 anni alimentato la conversazione dei cancellierati e poi, quando le si credette dimenticate, sarebbero state riesumate da qualche personalità nascosta dietro la firma Un bene informato o Testis o Machiavelli su un giornale dove lo stesso oblio in cui erano cadute le abilita a fare nuovamente sensazione. Dunque il principe Foggi aveva citato più di 20 nomi davanti al diplomatico non meno immobile e silenzioso d'un uomo privo d'udito quando il signor di Norpois alzò leggermente la testa e nella stessa forma in cui erano stati redatti i suoi interventi diplomatici più gravidi di conseguenze ma stavolta con aumentata audacia e minor brevità chiese finemente «E nessuno ha fatto il nome del signor Giolitti?» A queste parole la benda cadde dagli occhi del principe Foggi. Udì un mormorio celeste. Immediatamente il signor di Norpois si mise a parlare di questo e di quello. Non si peritò di fare un po' di rumore, come quando, risonata l'ultima nota d'una sublime aria di Bach, non ci si fa più scrupolo di parlare ad alta voce ed andare a prendere il soprabito in guardaroba. Rese anzi più netta la frattura, pregando il principe di deporre i suoi omaggi ai piedi delle loro maestà il re e la regina quando avesse avuto l'occasione di vederle, frase di congedo che corrispondeva a quel che sono, finito un concerto, queste parole gridate: il cocchiere Auguste di Rue de Blois. Ignoriamo quali fossero esattamente le impressioni del principe Foggi. Certo, era estasiato dall'ascolto di quel capolavoro e il signor Giolitti nessuno ha fatto il suo nome, perché il signor di Norpois, in cui l'età aveva spento o messo sopra le qualità migliori, in compenso aveva perfezionato, invecchiando, quelle concise arie di bravura, così come certi anziani musicisti, in declino per tutto il resto, acquistano fino all'ultimo giorno un virtuosismo perfetto che prima non possedevano per la musica da camera. Sta comunque di fatto che il principe Foggi, che contava di passare 15 giorni a Venezia, tornò a Roma il giorno stesso. E alcuni giorni dopo fu ricevuto in udienza dal re a proposito di certe proprietà che, ci sembra d'averlo già detto, il principe possedeva in Sicilia. Il governo vegetò più a lungo del previsto. Alla sua caduta, il re consultò diversi statisti su chi fosse il capo cui conveniva affidare il nuovo gabinetto, dopodiché fece chiamare Giolitti, che accettò. 3 mesi dopo, un giornale raccontò il colloquio fra il principe Foggi e il signor di Norpois. La conversazione era riferita nei termini in cui l'abbiamo riferita noi, con la differenza che anziché il signor di Norpois chiese finemente, si leggeva, disse con quel fine affascinante sorriso che ben gli si conosce. Norpois giudicò che finemente avesse già una sufficiente forza esplosiva per un diplomatico e che la giunta fosse quantomeno intempestiva. Aveva chiesto, è vero, che il Quai d'Orsay smentisse ufficialmente, ma il Quai d'Orsay non sapeva dove sbattere la testa. In effetti, da quando il colloquio era stato reso noto, il signor Barrère telegrafava parecchie volte al giorno a Parigi per lamentare che vi fosse un ambasciatore ufficioso al Quirinale e per riferire del malcontento che la cosa aveva prodotto in tutta Europa. Questo malcontento non esisteva, ma i vari ambasciatori erano troppo educati per smentire il signor Barrère quando giurava loro che tutti quanti erano assolutamente disgustati. Il signor Barrère, che ascoltava solo il proprio pensiero, prendeva quel silenzio cortese per un'adesione. Correva a telegrafare a Parigi, sono stato a colloquio per un'ora con il marchese Visconti Venosta, eccetera, e i suoi segretari non ce la facevano più. Ma il signor di Norpois godeva della devozione d'un vecchissimo giornale francese, che anche nel 1870, quando era ministro di Francia in un paese tedesco, gli aveva reso grandi servigi. Questo giornale, soprattutto il primo articolo, non firmato, era redatto a meraviglia, ma interessava 1000 volte di più quando il primo articolo, detto in quei tempi lontani Primo Parigi e chiamato oggi chissà perché editoriale, era invece mal scritto, con infinite ripetizioni di parole. Tutti sentivano allora con emozione che l'articolo era stato ispirato. Forse dal signor di Norpois, forse da qualche altro pezzo grosso del momento. Per dare un'idea anticipata degli avvenimenti italiani, vediamo come il signor di Norpois si servì di quel giornale nel 1870. Inutilmente si dirà, visto che la guerra ci fu comunque, ma efficacemente secondo il parere di Norpois, il cui assioma era che bisogna innanzitutto preparare l'opinione. I suoi articoli, dove ogni singola parola era pesata, assomigliavano a quei bollettini ottimistici cui fa immediatamente seguito la morte del malato. Per esempio, nel 1870, alla vigilia della dichiarazione di guerra, quando la mobilitazione era pressoché ultimata, il signor di Norpois, restando naturalmente nell'ombra, aveva pensato bene di inviare a quel giornale famoso il seguente editoriale. Negli ambienti autorizzati sembra prevalere l'opinione che da ieri, nelle ore centrali del pomeriggio, la situazione, pur senza avere, ben inteso, un carattere allarmante, potrebbe essere ritenuta seria e persino, sotto alcuni aspetti, suscettibile d'essere considerata critica. Il marchese di Norpois avrebbe avuto numerosi incontri con il ministro di Prussia al fine d'esaminare, in uno spirito di fermezza e di conciliazione e in modo del tutto concreto, i diversi motivi di frizione esistenti, se è il caso di definirli tali. Al momento d'andare in stampa non ci è purtroppo ancora giunta notizia che i due ministri abbiano raggiunto l'accordo su una formula che possa servire come base per un protocollo diplomatico. Ultima ora. Si è appreso con soddisfazione in ambienti bene informati che una leggera distensione sembra essersi verificata nei rapporti franco-prussiani. Si attribuirebbe un'importanza particolare al fatto che il signor di Norpois avrebbe incontrato Unter den Linden, il ministro d'Inghilterra, con il quale si è intrattenuto per una 20 minuti. Questa notizia è considerata soddisfacente, befriedigend, nelle sfere meglio informate. E nell'editoriale del giorno dopo si leggeva: «Sembrerebbe che, malgrado tutta l'abilità del signor di Norpois, cui tutti sono lieti di rendere omaggio per la corta energia impiegata nella difesa dei diritti imprescrittibili della Francia, una rottura non abbia più, per così dire, alcuna possibilità d'essere evitata». Il giornale non poteva dispensarsi dal far seguire a un siffatto editoriale alcuni commenti, inviati, ben inteso, dal signor di Norpois. Si sarà forse notato nelle pagine precedenti che il condizionale era una delle forme grammaticali preferite dell'ambasciatore in sede di letteratura diplomatica. Si attribuirebbe un'importanza particolare per «sembra che si attribuisca un'importanza particolare». Ma l'indicativo presente, preso non nel suo senso abituale, ma in quello dell'antico ottativo, non era meno caro al signor di Norpois. Ecco i commenti che seguivano l'editoriale. «Mai il pubblico ha dato prova ad una calma tanto ammirevole». Il signor di Norpois avrebbe voluto che fosse così, ma temeva esattamente il contrario. «È stanco delle sterili agitazioni e ha appreso con soddisfazione che il governo di Sua Maestà è pronto ad assumersi le proprie responsabilità per qualsiasi eventualità potesse presentarsi. Il pubblico non chiede, ottativo, nulla di più. Al suo splendido sangue freddo, che è già un indice di successo, aggiungeremo un'ulteriore notizia capace di rassicurare l'opinione pubblica, se ce ne fosse bisogno. Si dà infatti per certo che il signor di Norpois, il quale per motivi di salute doveva già da tempo tornare a Parigi per una piccola cura, avrebbe lasciato Berlino, dove non riteneva più utile la propria presenza. Ultima ora. Sua Maestà l'Imperatore ha lasciato questa mattina Compiègne per Parigi, al fine di conferire con il Marchese di Norpois, il Ministro della Guerra e il Maresciallo Bazin, nel quale l'opinione pubblica ripone una particolare fiducia. Sua Maestà l'Imperatore ha disdetto il pranzo che doveva offrire a sua cognata la Duchessa d'Alba. Questa decisione ha prodotto ovunque, non appena è stata resa nota, un'impressione particolarmente favorevole. L'imperatore ha passato in rassegna le truppe, il cui entusiasmo è indescrivibile. Alcuni contingenti, come conseguenza ad un ordine di mobilitazione lanciato al momento stesso dell'arrivo dei sovrani a Parigi, sono partiti, per ogni eventualità, in direzione del Reno. Qualche volta, tornando al crepuscolo in albergo, sentivo che l'Albertin d'un tempo, pur essendomi invisibile, era tuttavia rinchiusa in fondo a me stesso, come nei piombi d'una Venezia interiore, in una prigione di cui un incidente faceva a volte scivolare le pareti indurite fino ad aprirmi uno squarcio su quel passato. Così una sera, per esempio, una lettera del mio agente di borsa dischiuse un istante per me le porte della prigione in cui Albertin stava dentro di me, viva, ma così lontano, così in fondo, da rimanermi inaccessibile. Dopo la sua morte non mi ero più occupato delle speculazioni che avevo fatte allo scopo d'avere più denaro per lei. Ora, il tempo era passato. Grandi saggezze dell'epoca precedente erano state smentite dall'attuale, come era successo una volta a Thiers, quando aveva detto che le ferrovie non potevano aver successo. E i titoli di cui il signor di Norpois ci aveva detto «l'interesse che fruttano non è certo molto alto, ma almeno il capitale non sarà mai deprezzato» erano spesso quelli che avevano subito i maggiori ribassi. Solo per i consolidati inglesi e per le raffinerie 6 dovevo pagare agli agenti differenze così notevoli, oltre agli interessi e ai riporti, che con un colpo di testa decisi di vendere tutto. E da un momento all'altro mi trovai a non possedere più che un quinto di ciò che avevo ereditato dalla nonna e che ancora possedevo quando era viva Albertin. Lo si seppe del resto a Combray, in quel che restava della nostra famiglia e delle nostre conoscenze, e poiché si sapeva che frequentavo il marchese di Saint-Loup e Igermont, si disse: ecco a cosa conducono le idee di grandezza. Ci si sarebbe alquanto stupiti se si fosse scoperto che le avevo fatte quelle speculazioni per una fanciulla di condizione modesta come Albertin, quasi una protetta dell'ex professore di piano di mia nonna, Vinteuil. D'altronde, in quella vita di Combray, dove ciascuno è classificato per sempre a seconda delle rendite che gli vengono attribuite, sarebbe stato impossibile concepire la grande libertà che regnava nel mondo dei Guermantes, dove non si dava alcuna importanza al patrimonio, dove la povertà poteva essere considerata altrettanto sgradevole, ma certo non più avvilente né più lesiva della posizione sociale, di una malattia di stomaco. Probabilmente ci si figurava invece a Combray che Saint-Loup e il signore di Guermantes fossero dei nobili rovinati con i castelli coperti di ipoteche ai quali prestavo del denaro, mentre se fossi stato rovinato sarebbero stati loro i primi ad offrirmi, invano, un aiuto.